nessuno, nessuno, 100 Milan. 1. Nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. 9-8 minuti siamo qui, cari ascoltatori, fino alle 11 con voi e ci trovate all'800 24 00 24. Chi trovate? La nostra redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli. Trovate anche l'Alpino in regia. Ci scrivete anche se volete WhatsApp al 349-238-6666 oppure mail a 100milan@radio24.it. Natale, Capodanno non esistono. Questo per dire, mettiamolo come nei manifesti: Natale, Capodanno non esistono. Va bene, dai, si parte. I will not be easy and it will not be easy. Rock duro. Basta metallari. In tutto, signori, da 107 giorni i pescatori partiti da Mazara del Vallo sono là a Bengasi in Libia e oggi merito a Lorenzo Cremonesi che racconta in una pagina del Corriere della Sera le condizioni di detenzione. Bisogna usare questa parola, è vero, non sono in carcere ma sono in una struttura militare senza possibilità di movimento libero, senza possibilità di chiamare a casa. Una pagina del Corriere e ancora la Libia torna a dire: ridateci i calciatori che avete in carcere in Italia. Per la procura di Catania, però, in via definitiva non sono calciatori ma terribili scafisti, condannati chi ha 25 chi ha 30 anni di carcere. Sette giorni di prigionia. Gli ufficiali libici, testimonianze raccolte da un collaboratore del Corriere della Sera, dicono: è difficile che siano liberi prima di Natale. E qui contiamo e contiamo e ricontiamo ogni giorno e contiamo e contiamo e contiamo. A proposito di numeri, ce n'è uno terribile che gira da ieri, come ha dichiarato il presidente dell'Istat, Blangiardo, che tra l'altro nella vita, prima del presidente dell'Istat, ha sempre fatto il demografo, quindi di demografia se ne intende, e ci ha letteralmente, il caso di dire, sbattuto in faccia questa cifra, 700.000 morti. Cioè nel 2020 arriveremo al numero di vittime in Italia come nel 1944. Quest'anno purtroppo e facilmente supereremo il confine dei 700.000 decessi complessivi, che è un valore preoccupante. Una volta che siamo andati oltre i 700.000 morti, eravamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente non tutti di Covid, ma il Covid incide. Modello Italia. Io non lo so, perché si continua a parlare ancora di modello Italia nel frenare l'epidemia? Lo chiedo, cioè i numeri e la condizione ci permette di poter dire modello Italia? Non lo so. C'è stato un periodo in cui si diceva che il modello Italia veniva replicato in tutto il mondo e preso a esempio per contrastare l'epidemia. E poi a Natale non si sa cosa succederà, lo scoprirete, cari italiani, il 22, il 23, oppure lo scopriremo il 28 dicembre cosa si potrà fare a Natale. Scusate l'ironia, ma ancora dibattono, spostamenti, non spostamenti, zona rossa, zona arancione, un piede sollevato, una mano alzata, si potrà andare di qua, in ginocchio si potrà andare di là, non c'è una linea, sono previsti forse dei ritocchini, Conte, ritocchini. Abbiamo già predisposto, a dire il vero, come sapete, un piano per dedicate specificamente alle festività natalizie, però anche alla luce dei suggerimenti del CTS, il nostro comitato di esperti, forse qualche ritocchino, ulteriore misura aggiuntiva la stiamo per introdurre. Adesso i ritocchini, siamo in fase di chirurgia estetica, ritocchini. Uno dei ritocconi che pare previsto, già ragazzi iniziano a dirlo. Il Messaggero ci titola in apertura, ma tutti i giornali cominciano a buttarla lì. Quando si butta la palla avanti nel calcio e vedere che succede. Ecco, qui cominciano a buttare in dichiarazioni la questione della scuola e dalla possibile riapertura dei licei il 7 gennaio, dicendo non sappiamo adesso, cioè chi va come al solito a pagare tutto, le scuole forse non è il caso, le superiori di riaprire con questi numeri, come si fa a gennaio, forse no, maledetti. Sì, le scuole. Indovina un po' chi pagherà? I ragazzi, i giovani, quelli che non votano, quelli che stiano a casa muti, zitti, reclusi, senza istruzione. E vabbè. Maledetti! Ecco, dai, ridiciamolo. C'è questo anche altro tema, domani annunciazione alla redazione, quindi prendiamo nota, domani questo tema andrà fatto in qualche modo. E la questione degli specializzandi che dovrebbero essere ingaggiati dallo Stato per la grande campagna vaccinale che forse partirà ai primi di gennaio, si cerca di velocizzare tutto, vengono coinvolti anche gli studenti delle università di medicina. Come verranno ripagati questi specializzandi? Uno dirà, non lo so, 10 euro, 2 euro l'ora, un prezzo simbolico, 5 euro l'ora, 4 crediti formativi, 4 crediti formativi all'università. E molti di loro hanno iniziato a protestare dicendo con i crediti formativi non si pagano le bollette del telefono. Il lavoro si paga, cioè capiamo la situazione, ma il lavoro va pagato. Allora, come pagare gli specializzandi che verranno coinvolti nella vaccinazione in Italia? Crediti formativi oppure din din din denaro sonante, anche poco magari? Ne parleremo. Ora però io voglio iniziare alle 9:16 minuti la puntata col raccontare una storia che è una storia molto delicata, io lo dico subito, è una storia che in parte è anche una storia giudiziaria, io lo dico sempre come premessa, qui in radio non si fanno i processi si fanno nei tribunali della Repubblica Italiana, è una vicenda in parte anche giudiziaria perché intanto ci porta a Cuneo dove c'è una famiglia con due genitori e quattro figli, tutti minorenni questi quattro figli. C'è una separazione consensuale tra madre e padre. Dopodiché c'è una denuncia da parte della madre nei confronti del padre su dichiarazioni dei figli con accusa molto grave di abusi sessuali che il padre avrebbe commesso, usiamo il condizionale, c'è un processo in corso nei confronti di una figlia. Succede però da quel momento, siamo nel 2018, che anche allo stato attuale i figli, tutti e quattro minorenni, sono stati su disposizione del tribunale di Cuneo separati l'uno dall'altro. Mandati chi in comunità, chi affidati la più piccola a una famiglia. separati anche dalla madre, perché perché è interessante capirlo, perché la madre potrebbe essere affetta da alienazione parentale, questa sindrome che non ha una base scientifica ma che è alla base di molte decisioni, come dire, meglio dividerli tutti questi figli, perché sennò potrebbero essere condizionati anche nel formulare delle accuse concordate nei confronti del padre. Insomma, il risultato è che questa madre, dopo aver denunciato l'ex marito, non vive più coi figli, e i figli disperatamente chiedono di poter tornare con la loro madre. Madre che è con noi, io dico, è talmente delicata la vicenda che la chiamo Anna per tutelarne anche l'identità. Signora Anna, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a lei per l'invito. Saluto grazie. Anche il suo avvocato Domenico Morace, perché è giusto, avvocato, buongiorno. Buongiorno. Che è giusto, buongiorno. Insomma, per tutte le questioni giudiziarie molto delicate che ci sia l'avvocato. Allora, io inizierei, ci dia i termini temporali per far capire agli ascoltatori, signora Anna, da quando i suoi figli quattro sono separati. Lei li vede, ovviamente, so che di recente ha visto anche la più piccola, però sì, lunedì ho visto la più piccola. E io, vabbè, i bambini non sono più con me dal 2 di dicembre, quindi oramai è oltre un anno. In realtà dal 2 dicembre fino al 9 luglio, dal 2 dicembre 2019 al 9 luglio 2020 erano a casa dei nonni paterni, ma erano assieme, quindi questo era almeno un conforto. In realtà dal 10 luglio 2020 fino ad oggi i bambini sono in quattro luoghi diversi. E tra l'altro la cosa grave, scusi se mi permetto, è che sono stati da pochissimo combinati gli incontri tra i tre più grandi, che finalmente dopo mesi si sono potuti rivedere, ma ogni 15 giorni è combinato questo incontro per un'ora, mentre la sorellina più piccola non l'hanno ancora mai vista, cioè dal 10 luglio che non vedono la sorellina più piccola. Teniamo conto che ci sono state, hanno fatto i suoi figli, i vostri figli, sciopero della fame a staffetta, sciopero dei pasti, hanno scritto ai vari ministri, sottosegretari, dicendo vogliamo tornare con la mamma. Hanno scritto al Papa, Mattarella, c'è una petizione su change.org, ci sono interpellanze parlamentari, interrogazioni a dire... Non riescono a studiare, il mio figlio maggiore faceva il secondo anno di liceo scientifico, aveva un futuro, voleva diventare avvocato per i diritti dei minori, ma non riesce a studiare in queste condizioni perché non ce la fa, non ha testa. Anche la mia secondogenita voleva studiare, anche Leo al liceo delle scienze umane, e non ce la fa perché dice mamma io non riesco, hanno praticamente il futuro congelato. Senta, io le chiedo questo, mi ha colpito molto una frase terribile che se lei ci vuole confermare lei avrebbe detto, e cioè in questa situazione, a ripensarci, non denuncerei più mio marito per gli abusi. Io purtroppo mi vedo, mio malgrado, visto ciò che i miei figli stanno subendo, non io, ciò che i miei figli stanno subendo, a dover pensare questo, perché a mente lucida, se uno ci pensa, non può che vederla in questo modo, perché da quando io ho denunciato i miei figli hanno subito un accanimento davvero estenuante, sono stati portati via da me, loro sono abituati a vivere con degli animali domestici e non hanno più contatti con i loro amici pelosi, non vanno più a scuola, non vedono più i loro amici, non hanno più contatti con nessuno delle loro vecchie conoscenze. La situazione per loro è veramente devastante, quindi perché una mamma dovrebbe, sano di mente, dovrebbe augurarsi questo destino così infausto? Cioè, non è possibile, mi dispiace, no, io tornassi indietro non farei probabilmente altre scelte, non questa. Io voglio chiedere in questo l'aiuto del suo avvocato, sì, Domenico, sì, Morace. Grazie. Detto che, ripeto, non discutiamo dei presunti abusi, no? Quella è una vicenda processuale che si vede nelle aule di tribunale, eccetera. Io come tutti ci chiediamo perché da quella situazione si arrivi a quattro figli separati, ognuno in strutture diverse, imploranti, vogliamo tornare dalla madre, almeno fatecela rivedere a Natale, tutti insieme, invece non è possibile. Allora, avvocato Morace, c'è una perizia che parlava di questa sindrome di alienazione parentale. Sì, cioè, se ne accenna in perizia, però per essere corretti, la diagnosi che viene fatta in una perizia disposta dal Tribunale Ordinario di Cuneo nei confronti della mamma dei ragazzi parla di disturbo di personalità con altra specificazione, sì, in cui convergono elementi appartenenti al disturbo paranoide, borderline, antisociale e schizzoide. Questa è una diagnosi di una sindrome psichiatrica che viene ravvisata sulla signora dai periti del Tribunale di Cuneo civile. È per questo che si è arrivato alla decisione di, diciamo, separare? No, questa decisione arriva successivamente. Vede, questa è una vicenda alquanto singolare, paradossale per alcuni aspetti, perché da quando i ragazzi hanno rivelato di aver subito degli abusi, sono stati bersagliati e fatto oggetto loro di provvedimenti, eppure di fronte a un'accusa di abusi che, come lei ha giustamente sottolineato, deve essere decisa nella sede opportuna del giudizio penale, ma non si comprende per quale motivo, sulla base di una diagnosi che è stata sconfessata, perché la signora, dopo aver subito questa diagnosi, faccia conto che lei le riscontrano una qualsiasi malattia, si reca in un ospedale pubblico, si fa visitare, l'ospedale pubblico le dice che lei è sano come un pesce. È quello che è successo alla mamma di questi quattro ragazzi. Sì. Abbiamo riscontrato praticamente delle perizie non fatte male, ma ridicole, mi permetto di utilizzare questo termine, perché erano dense di manipolazioni, errori grossolani e falsità documentalmente provate. Di fronte a tutto questo, il tribunale si è chiuso gli occhi e ha inviato i minori. Guardi, non c'è bisogno di una laurea in giurisprudenza, ma c'è un processo penale in corso, l'accusato è il padre, sì, ma le sembra normale che i quattro minori vengano prima assegnati, collocati presso i nonni paterni, cioè i genitori, sì, del sospetto abusante che, tra altre cose, ha firmato, ha redatto e firmato una confessione in cui ammette di aver fatto gli abusi. È ovvio quello che sarebbe successo. Qui, avvocato, la fermo perché, non essendoci, prego, la controparte, diciamo, a potere o smentire o ribattere. Il contraddittorio sarebbe. No, no, no, ma no, magari su questa vicenda, no, noi abbiamo cercato voi proprio perché vorrei capire la questione, il rapporto figli-madre e questa richiesta che fanno i figli di potersi riunire con la madre. Appunto, come premesso, non facciamo il processo, quindi non entriamo nelle questione degli abusi. E questa sindrome d'alienazione parentale, lei, che è molto dibattuta perché non c'è una base scientifica, è anche alla base di tantissime separazioni. Guardi, mi scrivono, giustamente, avvocato, ci sono anche tantissimi papà che in separazioni senza abusi normali subiscono, diciamo, questo bollo, come lo dobbiamo chiamare, sindrome d'alienazione parentale. Che cos'è? Lei l'ha capito, avvocato? No, guardi, è una questione estremamente delicata, che comunque sul punto la giurisprudenza non riconosce questa sindrome come tale, per cui viene rimproverato praticamente alla mamma di questi quattro ragazzi di condizionarli, di poterli condizionare la figura del padre. Ma mi perdoni, ma come avrebbe reagito una persona normale, uno, sì, di noi, di fronte alla scoperta ascoltata dalla viva voce dei tuoi figli, che il tuo marito, dal quale ti sei separato, lei ha sottolineato bene, consensualmente, non era una separazione conflittuale. Sì, certo. Noi stiamo chiedendo aiuto adesso, perché la via giudiziaria noi non riusciamo a svolgere la nostra funzione. No, ma è chiaro, la richiesta, e tornerei dalla signora Anna, è quella molto semplice, da mamma, di dire fatemi stare con i miei affetti più cari. Certo, assolutamente, quella di che almeno a Natale i ragazzi possano tornare a casa, visto che sono in estrema, in molta sofferenza, in loro c'è davvero molta sofferenza, molta nostalgia, molta voglia anche di capire che cosa sia capitato, visto che loro continuano a dirmi: mamma, io ho soltanto detto la verità. Quindi credo che tutti i bambini vogliano festeggiare, soprattutto il Natale, che è considerata una festa molto cara e molto preziosa. Quindi lei ha capito, signora, che cos'è questa sindrome d'alienazione parentale? Almeno lei l'ha capito. Io l'ho capito soltanto, e posso averlo capito solo da mamma, non come giustamente l'avvocato dice, che secondo questi tecnici io ho in qualche modo plagiato i miei figli. Io quello che posso dire è che ho sempre spinto i miei figli a ragionare con la propria testa, e non ho nessuna motivazione per non credere a ciò che i miei figli mi dicono. Oltretutto sono 2 anni oramai che i ragazzi continuano a dire sempre le stesse cose, quindi penso che fosse stata una bugia, a quest'ora avrebbero modificato delle loro affermazioni, invece è sempre stato così. La cosa che mi dispiace è che in questo momento loro sono separati, erano abituati a festeggiare il Natale tutti assieme, io purtroppo mi sono persa tantissime cose dei miei figli in questi mesi, il primo giorno di scuola della mia più piccolina, che ha iniziato prima elementare, il primo giorno delle medie di mio figlio, che si è rifiutato e che ha iniziato solo da 21 mesetto circa ad andare a scuola, perché prima anche lui non se la sentiva di andare a scuola, perché diceva: la mia scuola è a Cuneo, quindi perché devo andare in un'altra città, in un altro paese? No, ma è chiaro, io come dire, per il momento mi devo fermare qui e certo. Intanto vi ringrazio, ripeto, sia la signora Anna sia la suo avvocato Domenico Morace. Di questa vicenda ci sono interrogazioni parlamentari che si sono anche spinte a definire, per esempio, questa una violenza di Stato. Io non mi spingo assolutamente a questo, anche perché come dire, il parlamentare che la cita poi all'immunità parlamentare, io no, e non lo so, non voglio entrare nella questione giudiziaria. Ci sono appelli al ministro alla giustizia Bonafede, li trovate su change.org. Ci sono 4 figli che indiscutibilmente, questo si può dire, chiedono disperatamente di poter tornare con la loro madre. La questione giudiziaria va avanti sui presunti abusi e intanto io vi ringrazio e mi fermo qui. È una storia che ci tenevo a raccontare, come ha fatto, e la voglio ringraziare anche Raffaella Regoli che racconta e segue questa storia da tempo per i programmi di Mediaset, e vedremo come evolve. Intanto andiamo un attimo in pubblicità. 1 nessuno 100 Milan. Honesty. Scusa Alessandro, ma gli specializzandi sono pagati dalla scuola universitaria, sono pagati. Tutti parlano della terza ondata di contagi, ma la seconda è finita? Beh, Milan, tutto sommato De Luca non ha torto. Ricordiamoci quello che scriveva Gramsci, che avrebbe voluto vivere un capodanno tutti i giorni. Per lui capodanno non esisteva, tutti i giorni erano capodanno. L'unico modello è il modello Cina, scusate. Eccolo là. Il modello Cina, Leonardo Manera! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Devo dire, posso fare una comunicazione, sì, una comunicazione caffè, rapida. Il caffè è buono. No. Sì, no, vorrei ringraziare il signor Nicolino. Il signor Nicolino. Che mi ha, sì, mi ha scritto che ha spedito lì in radio per me. Oddio. Due bottiglie di olio e una bottiglia di vino. No, vabbè, quindi, ma ragazzi, se, ma è una vergogna! Sì, il reception arriverà in questi giorni, questo pacco alla Miette per me. Allora, due bottiglie di olio e uno di vino, grazie. Poi la settimana prossima passo per a ritirare. Per policy aziendale non si ritirano qui i pacchi, no. Quindi spero che venga, ma rimane lì, venga dato lì, a un attenzione. Bisognoso, a qualcuno che ne ha veramente bisogno. Se volete facciamo come Fedez, andiamo in Maserati, con la Maserati di Manera, a consegnare due... Infatti. Sono due bottiglie di olio pugliese e una di vino del signor Nicolino. Ma è quello che ti chiedeva di andare a lavorare a raccogliere le olive, Nicolino? No, no. Quindi arrivano in reception, tenetele lì che poi io passo la settimana prossima a ritirare. Sai che mi farò delle belle bruschette nei prossimi giorni, delle bruschettone. Mi ha detto Nicolino sì. Mi ha detto che se voglio, quindi a mia discrezione, posso dare una bottiglia di olio anche a te, quindi deciderò. Grazie, poi grazie. Io poi la verserò così, un bicchierino e bicchierino a tutta la redazione. Va bene, ok. Grazie per il vino e per l'olio, Leonardo e Nicolino. Ce lo smazzeremo qua. No, io ho detto mandate Leonardo Manera CO presso Radio 24. Va bene. Allora, signori, il modello... No, rispondo all'ascoltatrice. No, non verranno pagati gli specializzandi per questo lavoro. Verranno pagati, questo ha detto il ministro, alla Università Gaetano Manfredi, con quattro crediti formativi. E molti ricercatori, ricercatrici, insomma, si sono indignati e hanno fatto flash mob dicendo: con i crediti formativi non ci paghiamo la spesa e le bollette. Comunque è il tema potrebbero che magari... provare, però potrebbero. Vanno un giorno al supermercato, ci vorrei pagare con un credito formativo, vedere quello che risponde la cassiera. Però dicono due me li tengo per la spesa di domani, due invece dei ticket restaurant, no, anche al ristorante quando riapriranno. Ma ho un credito formativo al posto del ticket restaurant, e vedere cosa risponde il ristoratore. Allora, modello Cina, ma noi ci siamo dimenticati che le voci dalla Cina che ci hanno accompagnato, come quella di Lorenzo Mastrotto, manager che vive e lavora a Wuhan, città che abbiamo tutti imparato a conoscere. Mastrotto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati anche a voi. Come sta intanto? Lì si è davvero scoperto che a Wuhan, in Cina, il modello cinese ha di fatto interrotto la catena di contagi. Beh, pare di sì, ci sono ogni tanto dei cluster, dei focolai che escono, ci sono dei piccoli lockdown, ma per ora insomma la situazione è tranquilla. Noi all'interno della Cina ci spostiamo tranquillamente, solo non possiamo di fatto uscire. Ah, non si può uscire. Cioè bar, ristoranti, sono tutti aperti? Sì, sì, stanno lavorando anche piuttosto bene. Proprio domenica abbiamo fatto un pranzo con alcuni amici italiani in una pizzeria e chiedevo al titolare com'è la situazione, mi diceva: guarda, siamo ripartiti alla grande, cioè il rimbalzo si è sentito anche da loro. Il rimbalzo, beh, insomma, quindi si riparte. Allora, c'è la grande dibattito, ci siamo chiesti ieri in redazione, ma il vaccino cinese, come funziona? Lei che rapporti ha col vaccino cinese in quanto italiano in Cina? Allora, cioè, credo che ci sia un po' di disinformazione, o comunque non disinformazione, ma si è capito un po' poco anche a livello internazionale. Quello che noi sappiamo qui in Cina è che il vaccino è pronto da circa, è stato lanciato circa un mese fa, con la prima informativa del governo che diceva il vaccino sarà riservato al personale sanitario e all'esercito. L'esercito dovrà quindi vaccinarsi in toto, tanto che qualcuno faceva delle battute dicendo se li usano un po' come cavie da test per questo vaccino. Adesso è stata fatta la vaccinazione, però soltanto su 1000 persone in un paio di piccole, anche grandi, insomma, città. Sono due dosi di vaccino che costano circa 150 renminbi a dose, quindi 20 euro fondamentalmente a dose, quindi è molto in linea con i costi che ho visto anche europei, americani. Però di fatto, appunto, parlo di 1000 persone, poi appunto esercito, settore sanitario. Il governo in questa informativa ha detto: per voi civili aspettate la primavera prossima. Perfetto, quindi nessun civile è stato vaccinato di fatto? Sì, alcuni sicuramente sono stati vaccinati, io non ne conosco personalmente, però so che alcuni che viaggiano molto per business, magari anche per conto del governo, mi diceva un amico ad esempio che ha parlato con un cinese che era stesso in Africa, in Etiopia, che gli diceva che lui ha appuntamento a gennaio, mese prossimo, per la vaccinazione, per poter poi uscire. Tra l'altro non è nemmeno chiaro poi se uno, quando viene vaccinato, nel momento in cui rientra in Cina, è di nuovo soggetto alla quarantena, che è adesso obbligatoria, oppure allora invece passa in libertà. Quindi non è chiaro, ci sono molte cose ancora da chiarire. Per ora è tutto molto poco chiaro. Comunque diciamo il 99,9% delle persone stanno aspettando e non hanno nessuna informazione che ci sia imminente la possibilità di avere somministrato. Leo, che dici tu? Chiedevo se in Cina sono stati diffusi dati sull'efficacia del vaccino cinese, appunto, oppure se non se ne sa nulla. Sai che qua si calcola la Pfizer 94, Moderna 95 e così via. Lì sono stati dati questi dati? Sì, una buona domanda. No, almeno che sappia, io non ho mai visto nessun tipo di dato. Per quello appunto erano state fatte queste battute sul fatto che venisse dato l'esercito, sono quasi 2 milioni di persone, quindi poteva essere il test. Poi vabbè, a parte le battute, però sì, è una buona considerazione, perché non abbiamo idea. Infatti, diciamo, anche noi parlando di questo vaccino, tra noi italiani, diciamo, l'unico motivo per farlo sarebbe quello di evitare poi la quarantena, di poter tornare ad uscire dalla Cina. Perché se uno fa il vaccino, lo fa per avere una copertura, magari anche annuale, magari poi da rifare, ma se uno deve fare il vaccino e poi deve fare le quarantene perché, che ne so, il virus muta, perché non copre, allora che senso ha? È un'obiezione legittima. Certo, l'abbiamo già affrontata questa questione anche con Filippo Santelli, corrispondente di Repubblica. Modello Cina, lì più che il vaccino è servito anche la durezza, no? Come abbiamo detto varie volte, l'anteporre in assoluto la salute pubblica a tutto, certamente anche alla libertà personale. E questo ha portato obiettivamente dei benefici dal punto di vista della diffusione. Sì, Filippo l'ha raccontato bene la sua storia, proprio che ha avuto personalmente, ma io posso dire che noi abbiamo avuto una cugina, vivevano in casa con la figlia, il marito e due genitori della cugina. Di fatto, praticamente, siccome lei si è ammalata, lei è stata sintomatica, è finita in uno di quei centri tipo palestre, la suocera e il marito invece sono finiti in ospedale perché erano un po' più gravi, ma fortunatamente sono guariti. Però alla fine si sono trovati a casa il suocero con la bambina piccola, molto piccola, che il suocero era in estrema difficoltà perché non aveva più nessuno che gli dava una mano, non sapeva, poi gli mancava magari un po' di cibo in quel periodo del lockdown, quindi non sapeva nemmeno come nutrire la bambina, quindi ci chiamavano quasi tutti i giorni, perché più che il problema per gli ammalati era il problema per quelli che stavano a casa da soli. Certo. E questa divisione delle famiglie per magari anche un mese o due mesi, addirittura lei poi alla fine ci ha messo per poter tornare a casa senza nessun sintomo, quindi è stata una situazione pesante che ha influito molto sulle relazioni. Sì, diciamo che l'abbiamo raccontato, ripeto, Filippo Santelli è stato nostro ospite la settimana scorsa, ha raccontato come, cioè, non è che ci si pone il problema ai figli a casa piccoli, tra l'altro che devono stare da soli perché non possono, devono stare isolati, certo non abbandonati a loro stessi, però non possono essere accuditi da altri. In Cina chi se ne frega, ma chi se ne frega in senso pragmaticamente brutale. Dobbiamo anteporre il fatto di dover stroncare la diffusione. E vabbè, certo. Lorenzo Mastrotto, ma lei che quindi se lo farebbe il vaccino cinese? Sento che, come dire, qualche dubbio c'è. Dovessero sì, diciamo che io, se potessi viaggiare liberamente, sì, lo farei, probabilmente metterei, insomma, però in questo momento, se mi dicessero no, comunque ci sarebbero regole, cioè soltanto se potessi viaggiare, come dicevo prima, liberamente. Come era una volta, insomma, prima che noi lanciassimo il Covid, purtroppo, sì. Altrimenti no, probabilmente non lo farei, sì. A meno che non fosse obbligatorio, perché sì, è abbastanza probabile che diventi obbligatorio. Esatto, perché lì poi se decidono che è obbligatorio non è che uno può dire no, ma io faccio un sit-in di protesta. Va bene, grazie a Lorenzo Mastrotto da Wuhan. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Specializzandi in quanto tali ricevono una discreta borsa di studio e quindi sono pagati. Ergo, fra le altre cose, possono anche dedicarsi alle vaccinazioni free of charge. Milan, ma se gli specializzandi li pagano con i crediti formativi? Ma Manera, non possiamo pagare con dei bitcoin? Sì, poi dopo lui chiama Meazza, riesce a farseli cambiare in maniera losca. Facciamo una puntata sui bitcoin, chissà che fine hanno fatto. Sono sempre, credo, in voga. Sì, dai, intera puntata sui bitcoin. Focus Economia, scusa, abbiamo il nostro Sebastiano Barisoni. Io voglio prendere il posto anche di Focus Economia. Ecco. No, la questione dei specializzandi, beh, vuol dire a maggior ragione che domani dobbiamo invitare uno degli specializzandi che protesta, perché loro dicono: con la nostra formazione questa attività ulteriore non avrà niente a che fare. Poi bisognerà lavorare di più, perché se ci sarà una campagna di massa bisognerà lavorare di più, e quindi dicono perché ci dovete. E poi è stato il ministro che ha detto vi diamo 4 crediti formativi, quindi riconosce evidentemente il ministero che c'è un lavoro suppletivo rispetto a quello che devono fare, per il quale sono già pagati, e questo 4 crediti li fa mandare in bestia. Oggi un bitcoin vale più di 15.000 euro, ci scrive subito un ascoltatore. Quindi allora, paghiamo, pagatemi in bitcoin. Veramente. Quanti ne vorresti al giorno? Fatemene 4 come crediti. Invece formativi. Di 4 crediti formativi, direttore personale Manera vorrebbe 4 bitcoin, ma al giorno? Al giorno. Sarebbero virtualmente 60.000 euro al giorno. Sì, ma virtualmente, scusa. Poi bisogna vedere la prova dei fatti, però, in quanto si traducono. Altro che Fedez. Prego, Leo. Allora, il tema di questi giorni è la responsabilità. Si chiede ai cittadini, dopo aver consentito di muoversi liberamente per le città e anche dopo aver incentivato gli acquisti nei negozi invece di fare ordini online, si chiede ai cittadini di muoversi, di andare in giro, sì, ma non troppo, quel tanto che consenta di far crescere l'economia, però senza far crescere gli assembramenti, secondo forse un algoritmo che probabilmente ciascuno di noi dovrebbe autoprodursi in salotto nell'angolo cottura. Dopo bevi responsabilmente, il nuovo motto potrebbe essere vai in centro responsabilmente. È vero che è presumibile che se io vado in centro il sabato pomeriggio troverò pieno di gente e quindi farò parte anch'io dei tanti famigerati assembramenti. Infatti personalmente non ci vado e non ho intenzione di andarci. Però è anche vero che l'uomo è un animale sociale e se c'è la possibilità di vedere altri propri simili in giro magari fa bene alla salute psichica e non ci dà l'idea di essere una specie di day after post-atomico. Soprattutto, lo dicevo ieri, se vivi in una casa piccola e con altre persone dove il senso di claustrofobia a un certo punto è inevitabile, è naturale che si senta la necessità di uscire, magari andare a fare due passi in centro, visto che è consentito. Insomma, non mi sembra uno spettacolo immondo, come qualcuno ha sostenuto. Passeggiavano in centro a braccetto, vicino a molte altre coppie o singolo, addirittura gruppi di persone. Che spettacolo immondo! Immagino anche le conversazioni in famiglia. Mamma, ho conosciuto un ragazzo. Ah, e cosa volete fare? Mi ha proposto una passeggiata in centro. Che vergogna, ti sei trovato un delinquente. Non sai che andare a passeggiare in centro vuol dire dare uno spettacolo immondo? Hai ragione, mamma, mi troverò un bravo virologo la prossima volta. Brava, così invece di portarti a camminare in centro, ti porto a fare due passi in un laboratorio di microbiologia. Questa è serietà. Ma poi il problema di fondo che si pone è perché gli italiani siano così critici rispetto a quello che viene consigliato loro da molti dei politici più in voga. Credo che la chiave stia in due parole simili ma diverse: autorità e autorevolezza. Si può governare con autorità anche nelle democrazie, ma serve a poco se manca l'autorevolezza. La nostra classe politica vorrebbe comportamenti esemplari da parte di noi cittadini italiani, ma è quella stessa classe politica che ha detto tutto e il contrario di tutto, che si è alleata con partiti con i quali aveva escluso alleanze, che ha governato prima con uno e poi con l'altro come se niente fosse. Non faccio differenze di destra o sinistra, credo che ognuno dei politici più in voga abbia qualcosa a farsi perdonare. E invece ognuno di loro, quando capita l'occasione, ripete sempre che rifarebbe tutto quello che ha fatto. Questo probabilmente porta i cittadini, porta molti di noi a non credere più ai leader che ci rappresentano e porta noi italiani a comportarci ciascuno secondo una propria responsabilità personale, che certo in alcuni casi può anche essere sbagliata. Ma lo facciamo probabilmente dopo aver avuto mille delusioni da parte di quelli che oggi vorrebbero dirci come si fa. Con autorità, sì, ma purtroppo a volte con scarsa autorevolezza. Bravo Leo, io ieri a un'amica che mi chiedeva, l'ho spiegata così: abbiamo dei politici che decidono, ma tutti, che si fa così, no cosà, no cosù, no cos'è, no cosò, forse cos'è, però dal 24 al 26 così, poi cosà, e allora sai che c'è? Che gli italiani, sbagliando o adeguandosi, ognuno si fa il proprio così, cioè dico, ma io decido così per me stesso, sbagliando, ed è un errore, ma si segue un po' il flusso di coloro che dall'alto dovrebbero dire le cose come stanno. Invece, anche, ricordiamo... No, è anche della, dico io, della stima che si sono guadagnati negli anni, no? Quelli che ci rappresentano. Sì, io dico una cosa, particolarmente fiducia in quelli che mi rappresentano, io seguo volentieri quello che mi dicono, se ne ho un po' meno cerco anche una strada mia. Io vorrei far notare che siamo al 16 dicembre e non si sa ancora. A grandi linee sì, però ci saranno i ritocchini, come ha detto Conte, non si sa ancora che cosa, quali saranno esattamente le regole del Natale, cioè tra 5 giorni, tra 8 giorni, 9 giorni, diciamo, mettiamo da Natale dal 23-24, cioè questo è, ma come si fa a non programmare così una cosa? Non parliamo poi della questione del 7 gennaio, riapertura delle scuole. Io ti giuro, dovrebbero gli studenti dei superiori, in caso non ci fosse l'apertura delle scuole, io non lo so perché hanno 14 anni, 15 anni, ma altro che le manifestazioni di un tempo, ma dovrebbero proprio manifestare, se lo fate in maniera, sono davanti con voi a manifestare prima volta nella vita per la riapertura delle scuole in maniera... Allora vengo solo per vedere te che manifesti. Tu, che sei sempre stato contrario all'occupazione, le manifestazioni, sarai lì col cartello. Sì. Vengo a occupare. Giornale radio. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 1, nessuno, 100 Milan. Veramente, Manera e Milan, come attenti a quei due, Tony Curtis e Roger Moore, uguale uguale. Ma quel signore che ha chiamato prima, perché non dice quanto prendono gli specializzanti, almeno in Italia, che prendono uno stipendio da fame dopo aver studiato 6 anni come minimo? Visto che il governo Conte non riesce a darci certezza a meno di una settimana dal Natale a tutti gli italiani residenti all'estero come me, puoi chiedere gentilmente al ministro Bonetti se può farci sapere qualcosa a lui? Grazie. Lo vedremo tra poco. Tra poco magari chiederemo al nostro ministro Bonetti. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, cari ascoltatori, le 10:10 minuti. Ora voglio parlare anch'io, dare spazio a Telethon, perché io ricordo che la Fondazione Telethon è in pieno corso la campagna, siamo alla 31esima edizione, quindi da diversi anni. Telethon ha raccolto in questi anni 556 milioni di euro, finanziando oltre 2700 progetti e 1630 ricercatori su 580 malattie studiate, malattie rare, e dunque la raccolta è in corso. Saluto il direttore generale della Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno di essere a lei, qui. Grazie dell'invito. Ci mancherebbe. Allora, intanto ricordiamo subito il numero, perché così, visto che è tutto in corso, si può ancora fino al 31 dicembre donare, poi sempre. Certo, il numero è 45510, ma io consiglio sempre invece di andare sul sito www.telethon.it, dove è possibile donare, ma prima è possibile informarsi, e in fondo il donatore informato è quello che ci piace di più. Eh sì, il dono infatti è un po' il leitmotiv di questa edizione, di questa annuale edizione. In questo anno così difficile avete notato che c'è più difficoltà a donare o più invece propensione a donare? Guardi, in realtà abbiamo notato una propensione uguale a prima, abbiamo sentito una rinnovata fiducia, perché mai come in questo anno forse la gente ha capito che cosa significhi essere affetti da una malattia sconosciuta, che cosa significhi non avere una cura disponibile per una malattia. In fondo questo è quello che facciamo noi. E quello che abbiamo fatto noi negli anni è appunto indagare malattie non note, peraltro gravissime, che compromettono la qualità della vita, se non la vita stessa, delle persone, e con l'obiettivo di trovare delle cure. Tra l'altro finanziando programmi di ricerca, e credo che quest'anno si sia capito, no? Che la soluzione a gravi problemi di salute non può che venire da una ricerca finanziata, e finanziata bene. Sì, la ricerca è sempre la chiave. Ricordiamo che siamo come investimento del PIL tra i paesi purtroppo fanalino di coda nell'Unione Europea. Bisognerebbe investire di più in ricerca, e quindi è bene. E avere più fiducia nei programmi di ricerca. Perché investiamo poco? Investiamo poco, ma siamo anche uno dei paesi caratterizzati da uno dei peggiori pensieri antiscientifici, no? Sì. Grandi pregiudizi nei riguardi della ricerca. Invece la ricerca è di fatto appunto lo strumento con cui si arriva alla messa a punto di cure e quindi di soluzioni, e poi è una realtà che deve essere mantenuta sempre. Cioè la ricerca non risponde in emergenza, La ricerca è in grado di dare risposte all'emergenza soltanto se è una macchina tenuta molto in assetto. Sì, sì. Ovviamente, ovviamente poi tutti molto conoscono anche Fondazione Telethon anche per l'appoggio della RAI, possiamo dirlo tranquillamente. Non ci sentiamo concorrenti, insomma, per tutti gli show, tutti i programmi che continuano e sono già partiti e continueranno, no, per le, certo, le maratone televisive. Aiuta anche quello, è innegabile, un po' di visibilità che arriva a tutti. E certo, aiuta anche quello, aiuta moltissimo, quindi noi abbiamo il nome televisione, l'abbiamo nel nostro nome, no? Telethon viene, sì, da Television Marathon, fu inventata da una persona di spettacolo, Jerry Lewis, però siamo molto altro dietro lo spettacolo. In un certo senso questa origine tutta televisiva ci ha resi molto famosi ma poco conosciuti, mm-hmm, per quello invito ad andare sul sito a vedere quello che facciamo, perché dopo la raccolta noi siamo una macchina di, invece di valutazione importante di progetti di ricerca. Credo che il meccanismo che abbiamo messo a punto, il sistema per valutare le proposte che arrivano dai ricercatori, sia uno dei sistemi intanto certificato in qualità, mm-hmm, ma soprattutto è un sistema che dall'inizio cerca di premiare i progetti migliori, evitando il più possibile il conflitto, certo, di interesse. Quindi ecco, voi ce lo spiega in due parole come funziona? Voi raccogliete la somma e poi valutate i progetti che vi vengono proposti, sì, e scegliete come finanziare e chi finanziare. Esatto, però non siamo noi a farlo, quindi noi abbiamo messo in piedi un meccanismo che abbiamo mutuato da grandi enti internazionali, per la verità simula molto quello che il governo americano utilizza, no, questo NIH americano per erogare i fondi ai ricercatori statunitensi. Noi l'abbiamo attuato qui, quindi attraverso dei bandi i ricercatori italiani presentano le loro domande, quindi scrivono i loro progetti, e noi abbiamo una struttura interna che gestisce questi progetti mandandoli in revisione ai più grandi esperti in giro per il mondo. Quindi noi utilizziamo un database di quasi 7.000 revisori scelti fra ricercatori di tutto il mondo, e li scegliamo per lo più stranieri, non per esterofilia, ma proprio per minimizzare il rischio del conflitto di interesse. Quindi, poiché vogliamo finanziare i migliori ricercatori in Italia, separiamo valutato e valutatore, diciamo, no, in questo modo, e questo negli anni davvero ci ha garantito di destinare il denaro necessario a quei progetti che risultavano essere i più promettenti. Ora, è evidente che non è un sistema perfetto, ma è un sistema che cerca appunto di ridurre il rischio dell'errore e di andare a destinare il denaro richiesto, quello necessario, a quei ricercatori che hanno presentato le idee più promettenti. Bene. Siccome negli anni i risultati li abbiamo visti, perché siamo riusciti a mettere in piedi non solo grandi progetti di ricerca che hanno dato luogo a notevoli pubblicazioni scientifiche molto visibili internazionalmente, ma poi abbiamo portato a casa il risultato atteso di alcune terapie, quindi abbiamo trasformato la ricerca in terapie, questi risultati ci confortano sulla bontà del metodo. E allora io... vai Leo. No, solo una domanda, se una persona pensa di essere affetta da una malattia rara e magari nel posto dove abita non ha delle risposte sulla terapia o su a chi rivolgersi, può far riferimento a voi anche solo per avere un'indicazione? Certamente, cioè noi abbiamo un servizio che chiamiamo Inforare, che anche questo è reperibile sul nostro sito tranquillamente, dove al quale possono essere fatte delle domande. Abbiamo dei genetisti che stanno presso i nostri uffici che danno delle risposte sia in merito alla malattia sia anche in merito ai centri dove è possibile rivolgersi e anche allo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. Allora io nel ringraziarla voglio ricordare fino al 31 dicembre 45510 per donare 2 euro a SMS oppure teleton.it, è la cosa forse più semplice, Teleton è col TH, ma tanto dai, lo sapete, insomma, ormai è conosciuta e straconosciuta. La ringraziamo Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Teleton, per essere stata qui. E, ovviamente avete tempo fino al 31 dicembre per E poi, se volete, continuando sul sito in qualsiasi momento dell'anno, per sostenere la ricerca per le malattie rare. E ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, ecco il caso della bambina curata al Santo Bono di Napoli. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10 e 19 minuti. Forse avete visto sui giornali, avete visto in TV questa straordinaria storia che nasce ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e che ci riporta all'oggi con la vicenda del soldato americano e dei tre fratellini trovati in una cesta. My love, I just feel so lost without you, boy. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Era l'epoca dell'avanzata dell'azione militare dell'85esima divisione alleata, quando il soldato americano, allora Martin Adler, insieme a un commilitone, entra in una cantina, in un luogo, in una casa, e trova, e c'è un rumore che proviene da una cesta, e l'istinto, temendo un agguato tedesco, è quello di sparare. Ma c'è quest'urlo della madre che dice: bambini, bambini, cioè dire dentro ci sono dei bambini. E questi bambini sono i fratelli Bruno, Mafalda, Giuliana, Naldi, che erano lì nascosti nella cesta. Ebbene, dopo anni e anni si sono virtualmente reincontrati. Io intanto voglio salutare Matteo Incerti, giornalista, scrittore. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti, grazie. Perché se questo incontro c'è stato è anche e soprattutto grazie a Matteo Incerti, che ha divulgato il desiderio di questo soldato 96enne di sapere che fine hanno fatto quei bambini. Vorrei risentirli, vorrei rivederli, Sì, è tutto nato una decina di giorni fa. Stavo navigando su un gruppo social di veterani nativi e non dell'esercito canadese americano, un gruppo che frequento molto dopo il mio ultimo libro, I Pelle Rossa, che liberarono l'Italia. Vedo la foto di questo soldato americano con tre bambini scattati in Italia nell'ottobre 44 e il post della figlia Rachel. Mi dico, ce la possiamo fare, facciamo un regalo al soldato Martin Adler, che oggi ha 96 anni. Sì. Ti ritroveremo anche questa volta, perché io già altre volte avevo... in questi 10 anni, poi erano diventati anche altre storie che ho raccontato nei miei libri, ricongiunto delle famiglie. Ce la possiamo fare, scrivo un appello su Facebook insieme alla figlia Rachel e in pochi giorni la notizia diventa virale. Diventa virale. E domenica, il giorno di Santa Lucia, magia nella magia, mi arriva un messaggio su Messenger. Un signore di 83 anni e le sue sorelle la cercano, la vorrebbero contattare, sono loro. E così questa favola di Natale è diventata realtà. È diventata realtà. Bruno Naldi, buongiorno Bruno. Buongiorno. Quanti buongiorno. Anni ha lei adesso? 83 compiuti. 83 compiuti. È uno dei tre che era nella cesta lì. Ma lì, sì. Quanti anni sì, aveva? Era. Quanti anni aveva quando è stato nascosto? Io avevo 4 anni perché sono del 37. 4 anni. Se la ricorda? No, avevo 7 anni. Se, ma si ricorda qualcosa? Ha un ricordo nitido? Beh, 7 anni era già grandicello. Io mi ricordo i militari, però non mi ricordo più niente. La stanno chiamando i militari, no? Si ricorda no, i militari. E l'altro telefono che adesso ha risposto mia moglie, non so, che è una cosa che guardi. La stanno cercando tutti. Cioè, si ricorda i militari, ma si ricorda... me lo dica lei, che ricordo ha di quella scena? Io di quella scena niente. Io mi ricordo i militari dopo, e mi ricordo che... c'erano i tedeschi, che eravamo nel rifugio, che c'erano i tedeschi, e poi dopo i tedeschi hanno liberato il posto perché si sono gli americani spingevano, sì. E loro sono, e allora è arrivato gli americani, e mi ricordo che c'era, avevano piazzato una batteria di cannoni lì proprio di fianco alla casa. poi avevamo fatto un attendamento, che c'era un po' di terra lì vicino alla casa, avevamo fatto le tende così. E poi mi ricordo che sti soldati venivano in casa, caramelle, cioccolate, ci diavano tutti i beni di Dio, però io non mi ricordo. No, non si ricorda la scena, però c'è questa foto forse... Questa foto che lui ha fatto, perché dice che quando sono arrivati questi due... Noi in casa facevamo un po' di rumore, allora loro si sono presentati con il mitra spiazzato perché pensavano che ci fosse dei tedeschi in casa. Mm-hmm. Allora quando mia madre ha visto questa cosa, dimmi, e loro si sono fermati. E non hanno sparato. Siamo saltati fuori noi. E dopo ci hanno chiesto se potevano fare una foto per ricordo. C'è questa foto su tutti i giornali. Però si fermi un attimo, Bruno, perché poi Matteo Incerti, appunto, vi ha messo in contatto e c'è stata questa telefonata. E grazie, Matteo, ci ha mandato un po' l'audio di questo incontro via telefono che possiamo ascoltare. No, con ci siamo salutati. Sì, sentiamo il saluto con. Con il soldato Martin Adler. All these people trying to help you find these children. Elated. I think it's wonderful. And I just hope that they, find these three children and determine and find out how do they. Matteo, ovviamente c'è stata, immagino, grande emozione, cioè emozione più credo anche per il soldato, perché è lui poi che ha portato avanti questo desiderio di sapere, ma questi tre bambini, forse avrà trovato un giorno la sua foto in casa, avrà detto, ma questi bambini, ma che vita avranno fatto, Matteo? Certo, per lui è una grandissima emozione, come mi ha raccontato, mi sta raccontando tutta la sua vita, adesso ci siamo aperti, siamo diventati amici in pochi giorni con la famiglia, sto scrivendo la storia che è ancora più incredibile, lui è ebreo, quindi combatteva una doppia guerra, certo. Ed era l'unico momento bello di tutta la guerra, e lui si ricordava questo scatto, perché era l'unico momento felice, del resto lui ha sofferto anche dello stress post-traumatico, ha vissuto cose tremende in Italia. Quindi questo era l'unico arco di luce nella guerra, e quindi ritrovare quei bambini. Dicevi, Leo, la cosa più bella. No, dicevo che in qualche modo è un ricordo importante, perché sono vite salvate in qualche modo, cioè ha trattenuto l'istinto di sparare e ha salvato delle vite. E come dice anche proprio un proverbio ebraico, chi salva la vita un uomo salva il mondo intero. Certo. Assolutamente. E Bruno, effettivamente voi dovete proprio la vita a questa persona che avrebbe potuto per istinto sparare, spaventato. Quello sì, solo che noi, puoi immaginare, quell'età lì non puoi ricordare queste cose. Certo. Io mi ricordo i militari, mi ricordo tutto, che addirittura avevano una scimmietta che mi ha corso dietro, che mi sono preso una paura, e poi dopo sa nel tempo dopo si giocava anche. Cioè lei ha visto che bello, no? Certo, è bello, perché nei ricordi di un bambino la guerra non è tanto magari i bombardamenti in questo momento di qua, perché magari lì non c'erano nemmeno, ma ricordo questa scimmietta che correva dietro. E questa scimmietta che cosa le suscita, Bruno? Che ricordi ha di questa scimmietta? Ah, velocemente mi ricordo che mi sono preso questa paura, e poi dopo ci avevo fatto l'abitudine, e così non ci faceva più caso, così era una cosa. Visto che lei non si ricordava la scena, ha provato però, che emozione ha provato quando c'è stata questa telefonata con Martin Adler? Guardi, io la telefonata, ci siamo salutati, perché lui i nomi li riesce a dirla, anche chi si capisce che parla un po' così, però dopo parlare non niente. Io siamo fatto gli auguri, e lui ha detto che vuole arrivare a 100 anni, perché come anni. Finito il coso del virus, vuol venire in Italia e ci vuol venire a abbracciare. Sì, è vero. Quello lì è stato una cosa, guarda, che a me Io ho detto una cosa, se fosse stato, l'avesse fatto, fatto la ricerca 20 anni prima, ci poteva anche andare a fare una non metta limiti alla provvidenza, chi lo sa, se siete ancora, no Matteo Incerti, siete ancora in tempo, tu intanto stai scrivendo un libro. Ha aspettato 96 anni, quindi... No, anch'io non siamo più in grado, anche 83 anni di andare. Siete forti, ma tanto verrà lui, ha detto che viene a trovarvi in Italia appena possibile. Sì, ecco, io accetterei molto volentieri. Aveva già programmato con la figlia di tornare quest'anno sulle orme della sua guerra, lui aveva liberato Roma. Okay. E purtroppo il virus ha bloccato questo viaggio. Deve solo rinviare di un anno. Farà tornare ancora. Sì, sì, dovete tenere duro ancora un pochettino. Va bene, io vi ringrazio. Matteo, stai scrivendo già il libro, Matteo, ovviamente. Di questo. Io posso chiedere una cosa a Matteo? Ho sentito che Matteo ha fatto il libro I Pelle Rosse. Ne ha scritti tanti di libri. Sì, ma questi sui pelle. Io sono un grande appassionato di Pelle Rosse, ma in particolare qualche tribù, qualche appartenente a qualche tribù. La storia è incredibile. Le tribù caldesi erano volontari, discriminati nelle loro riserve, vennero a combattere per la nostra libertà. C'erano i Piglio, Ojibwa, i Mohawk. E anche ce n'erano nella 45esima divisione degli Stati Uniti, dei Sioux, dei Pawnee, dei Cheyenne, dei Cherokee. Pensate, hanno conquistato tantissime medaglie. Dopo la guerra, la storia inizia dal 43, quando sbarcano in Sicilia, si conclude ai giorni nostri, perché racconto anche la vita di tanti veterani che dopo la guerra tornano, diventano capi tribù, alcuni artisti, alcuni attori, e combattono per i loro diritti civili, che ancora allora erano negati, anche ambientali, perché ci insegnano madre natura. Quindi sentendo i nomi delle tribù, soprattutto indiani delle praterie. Sì, delle praterie, delle montagne. E sono stato anche onorato da una tribù, dovevano venire anche loro in Italia a celebrare i loro avi, ma il virus, come al solito, ha fatto questo brutto scherzo. Sono molto contento perché una tribù mi ha onorato con il nome totemico di Aquila Svettante per aver trovato questa storia che il loro capo tribù aveva detto: il grande spirito ci dice che un giorno verrà un giornalista a raccontare questa storia. Ecco. Io qua. Da bambino ero un grande appassionato di Pelle Rossa e gli anni d'America, eccoci qua. È arrivato che ricongiunge le mie storie. Certo. Secondo me, se posso dire qualcosa, loro mi hanno insegnato qualcosa, visto che lei è appassionato anche lei di indiani, di Pelle Rossa nativi. E loro mi hanno insegnato una cosa: nella vita è importante non possedere l'egoismo, ma condividere. E come anche questa storia è stata condivisa, forse in questi momenti bui dobbiamo tutti imparare nel mondo a condividere, mettere da parte l'egoismo e darci tutti una mano gli uni con gli altri. È così. Grazie allora ad Aquila Svettante, Matteo Incerti, e grazie a Bruno Naldi, che ha conosciuto finalmente il soldato virtualmente via telefono, in attesa di incontrarlo, il soldato che ha salvato la vita a lui e ai fratelli, alle sorelle anzi, e la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Signori, sono le 10:37 minuti. Abbiamo sentito anche nel giornale radio delle 10 che l'esecuzione in Iran di Ahmad Reza Jalali è stata rinviata. Qualcuno diceva potesse essere prevista per oggi, perché in genere il mercoledì è il giorno di esecuzione in piccagioni in Iran. Abbiamo seguito questa storia, abbiamo sentito varie volte la voce della figlia, perché questo ricercatore accusato di essere una spia israeliana a fronte di un processo giudicato totalmente sommario e di confessione storte, ha anche legami con l'Italia, ha insegnato in Italia, e i familiari, la figlia Amitis, abbiamo sentito spesso la sua voce, parlano ottimo italiano. Torna con noi, lo ringraziamo. per essere qui il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno. Allora, qua dobbiamo dire è una buona notizia, certo fa un po' sorridere dire una buona notizia parlando di un'esecuzione imminente che viene rinviata, non mi spingerei a dire è una buona notizia, è tutto quello di buono che possiamo ottenere in questo momento. Sì, in questo momento sì, rimane l'allarme altissimo, perché fino a quando questa condanna a morte non verrà annullata e le accuse ritirate, il rischio di esecuzione può esserci, non dico ogni mercoledì, ma ogni giorno. Poi questa idea che le esecuzioni vengano di solito il mercoledì, insomma sono state 250 già quest'anno, quindi sì. È evidente che avvengono durante la settimana sempre, e tra l'altro quella del giornalista Roland Sam, l'ultima sì. Nota è avvenuta sabato. Questa è stata terribile, e due parole vanno dette di questo giornalista, che era un oppositore al regime, viveva in Francia, poi è stato convinto ad andare in Iraq, da lì è scomparso, evidentemente rapito, è ricomparso in Iran, è stato, forse qualcuno dice, attratto in Iraq da una spia iraniana, sta di fatto che è stato impiccato. Con quale accuse? Cioè di fatto essere un oppositore al regime, no? Sì, poi nel codice penale è chiamato corruzione sulla terra. Corruzione sulla terra. Reato di evidente derivazione islamica, ma insomma, diciamo, tradotto in parole nostre, un oppositore che ha istigato la violenza e ha minacciato la sicurezza nazionale con le sue trasmissioni. Aveva una newsletter, un podcast che trasmetteva dall'esilio su Telegram, dando notizie su manifestazioni, denunciando le violazioni dei diritti umani. Insomma, era un giornalista e oppositore ed è stato impiccato. Questo è una delle esecuzioni, ognuna di per sé è grave, ma questa rappresenta proprio direttamente un attacco alla libertà di informazione. Sì. No, ma ognuna è grave nel mondo. Adesso io spesso lo dico, insomma, ogni esecuzione è sbagliata. Adesso ci si occupa dell'Iran, però insomma c'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti, dove paradossalmente, essendo una democrazia, c'è anche più apertura, no? Si sa quasi tutto, si sa fin anche l'ultimo pasto del condannato a morte. Però sono, credo, 58 ancora i paesi al mondo che mantengono la pena di morte, no? Sì, per fortuna meno della metà di questi poi la applica, e tra l'altro oggi arriverà una bella notizia delle Nazioni Unite con l'ennesima risoluzione per una moratoria sulle esecuzioni approvata dall'Assemblea Generale. Stiamo aspettando, credo che quando da noi sarà tardo pomeriggio arriverà questa buona notizia. Questa è una buona notizia. Poi bisogna vedere in Iran ci sono movimenti di opposizione alla pena di morte in Iran? Sì, ci sono molto vivaci, però il problema è che molte delle persone che hanno promosso campagne per l'abolizione sono in prigione. La stessa Nazanin Sotoudeh, l'avvocata più nota del paese, Atena Rahemi, tanti altri, però è un movimento molto vivace che si muove nei limiti in cui è costretto a muoversi, però sì, c'è una forte opposizione. Questa è una buona, come dire, anche questa è una buona notizia. Bisogna cercare dal basso di fare movimento per arrivare al giorno in cui i diritti umani e la pena di morte possa essere abolita ovunque nel mondo. Ora, i prossimi passi, cioè questa questione invece legata a Jalali, vede dei germi, dei germogli di positività, perché forse le pressioni degli ultimi tempi servono, anche le vostre, anche quella di Amnesty International. Cosa si può fare? Cosa bisogna continuare a fare a livello diplomatico? Certamente fare rumore, diciamo, in maniera diffusa sui social, attraverso tutte le iniziative che sia possibile realizzare. In questo devo dire c'è un grande sostegno anche dell'Università del Piemonte Orientale, oltre sì. Che naturalmente da parte vostra, dai mezzi di informazione. E poi bisogna che le diplomazie più interessate, parlo di Svezia, Belgio, Italia, che sono i tre paesi in cui Jalali ha fatto ricerca, continuino, perché evidentemente su questa vicenda con le autorità iraniane si può negoziare, si può discutere. E io credo che senza la pressione diffusa di opinione pubblica e senza il lavoro diplomatico oggi parleremo di gelati al passato, invece sì, parliamo ancora al presente. E questo è tutto quello che possiamo fare. Grazie Riccardo Nuri, ci sentiamo. Amnesty International Italia, portavoce di Amnesty International, che segue questa come tante altre campagne per i diritti umani. C'è Giuseppe che ci chiama da Lecco. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Leonardo. Eccoci. Buongiorno. Eccoci qua. Io ho cercato da un po' di tempo di mettermi in contatto con voi. Vabbè, brevemente ti dico la mia condizione è questa: io sono non vedente da alcuni anni, sì. Sono stato ipovedente, eccetera, insomma, gravi problemi. Però ho, fino a qualche anno fa, ho avuto una vita, diciamo, normale, cioè guidavo ancora la macchina, ho lavorato, eccetera. Ecco, la mia, innanzitutto voglio fare complimenti a voi e a Manera, che anche soprattutto per il pezzo di, che ho sentito ieri. Ha riscosso molto successo. Io lo invito proprio caldamente a mettere insieme un libro, e perché queste veramente... E poi no, vado avanti, sì, dai Giuseppe, ce la facciamo, è un po' una missione, è un po' la nostra missione del 2021. Una piccola cosa, se farà un libro, sì? O nei prossimi libri, deve fare anche un dischetto, un CD, dove lui parla e racconta, perché io non vedo, quelli che non vedono è una difficoltà. L'audio, ma ormai ci sono, Giuseppe, l'audiolibro, ormai audio è una versione quasi sdoganata. Non sempre. Vero. Ma in questo caso, soprattutto per Giuseppe, soprattutto in questo caso, per quelli come me, ecco, ma penso che avrebbe poco mercato, grazie comunque Giuseppe. Non fa niente, Giuseppe, insista Giuseppe. Leo, io te ne compro 10 sono già venduti, dai. No, me puoi mandare un anticipo, magari sì, un anticipo. Volentieri. Eccolo là, oggi non gli bastano due bottiglie di olio e una di vino, ricordiamo anche 20 euro di benzina, 10 euro di benzina, 10, pagate 10. Giuseppe da Lecco può mandare qualcosa, non lo so, un obolo. Il benzinaio lì di piazzale Udine, vedrò di fare qualcosa. No, ragazzi, siamo veramente alla vergogna totale. La cosa più importante che volevo dire era questa, cioè siccome noi che viviamo questa condizione abbiamo più difficoltà poi a scrivere le email, a cercare i podcast, eccetera, perché io... Tutti potrebbero fare una prova, mettere una benda e fare una cosa semplicissima che fanno... Certo. Tutti i giorni, cioè un'operazione normale, farla non vedendo, è complicatissimo. Io a volte volevo risentire dei podcast di Leo o altre cose, altre trasmissioni, ma non è così semplice. Fate una prova, non è così prendo questo spunto e lo sottopongo subito ai vertici della radio. Ai vertici della radio, assolutamente. Giuseppe da Lecco dice: vorrei lui, come tutti quelli che sono non vedenti, che hanno difficoltà evidentemente ad accedere ai contenuti, e vedo di capire cosa si può fare. Giuseppe, davvero la prendiamo come un impegno a capire se si può fare qualcosa per agevolare questo. Grazie davvero, Leonardo, se può ogni tanto racimolare qualcosa lo fa, questo lo abbiamo capito. Intanto andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Glowing in the shadows, twisted in confusion, grazing in the meadows, voices in profusion. Ma ascoltami, ma pissi, sta con Renzi, sta con Conte, sta con Salvini, come sta? Punto. Allora, qui non è questione di stare con nessuno, con qualcuno, noi siamo completamente alternativi, noi puntiamo al 51%, questa è la nostra, perché abbiamo basta il 50% più studio, un voto, basta il 50% esatto, più 50, un voto, cosa ho detto? No, il 51, no, questo che non detto, è la stessa attenzione. Cosa, lei inizia a studiare matematica, lei, studi matematica, ripassi matematica, mandiamo Lino del Pisi, partito super sovranista italiano, oggi che nessuno l'aveva invitato, partito peraltro, che si occupa veramente del benessere degli italiani, non tutti gli altri che vengono dopo. Eccolo qui, pissi anche tu, partito super sovranista italiano, PSSI, si pronuncia Pissi, ti protegge ogni giorno di più, ti difende ogni giorno, non sa neanche il testo del Lino, ti difende ogni giorno, la guardi, ti difende non sa neanche ogni più. Non sa neanche la difensione, neanche la difensione, la difensione e la protezione sono sinonimi, la difensione e la protezione sono sinonimi, attenzione, allora basta, ma se ne vada Carosio. Basta, oggi che non era in scaletta, perché l'avete fatto entrare l'ascoltatore? La colpa è sua. Vabbè, insomma, adesso. Allora, beh, ma cacciate Carosio, basta, via, fuori dalle scatole, via Carosio. Allora, concludiamo questa puntata. Invece ci è venuto a trovare il professor Mazza con i suoi 130. Ecco, vabbè. Basta, via Carosio. Ci è venuto a trovare il professor Mazza. Il mitico professor Mazza con il suo tranquillo notiziario della salute, con cui concluderei questa puntata. Benvenuti al notiziario della salute a cura del dottor Mazza. Prenotate subito gli esami del sangue. Se il sangue vi sembra troppo scuro, ci sono troppi globuli rossi. Se vi sembra troppo chiaro, ci sono troppi globuli bianchi. E il vostro sicuramente non è del colore giusto. Prenotate subito gli esami del sangue. Controllate la pressione tutti i giorni, ogni mezz'ora, per evitare problemi cardiovascolari, sempre in agguato. Evitate gli altri. State soli. Fare l'amore può trasmettervi gravi forme virali. Evitate di fare l'amore. State soli. Fate l'amore in solitudine e in silenzio. Urlare può causare danni alle corde vocali. Lo sport crea traumi e lesioni. Lo sport fa male. Giocare a tennis può causare la periartrite dolorosa, infiammazione della spalla. Chi dice sci dice trauma. Il calcio causa la rottura del legamento crociato. Prima o poi succede sempre. Camminare può causare infiammazioni e vesciche. State a casa. Viaggiare in aereo è pericoloso. Ne cadono pochi, ma qualcuno cade. E se capitasse proprio al vostro volo, state a casa. Attenzione alle conserve. Possono contenere botulino. Mangiate solo cibo non conservato. Bollite il cibo. Attenzione mentre bollite il cibo a non rovesciarvi addosso l'acqua di cottura. Può succedere a chiunque, in qualsiasi momento. Non ridete mai. Ridere fa abbassare la soglia di attenzione e i virus, mentre siete distratti, entrano facilmente nel vostro corpo. State seri, sempre. Le ossa col tempo tendono a rompersi, sono soggette a osteoporosi. Chiedete consiglio al vostro medico per farvi ingessare in via preventiva. Non giocate coi vostri figli, rischiate di cadere e procurarvi un trauma cranico. Fate giocare i vostri figli da soli, se ci tenete alla salute. Cambiate l'aria di casa continuamente spalancando le finestre. Dentro le vostre case i germi sono in agguato. Attenzione, l'aria fredda può causare gravi patologie al sistema respiratorio. Cambiate l'aria di casa mentre non siete in casa, ma anche mentre non siete fuori casa. E ricordate che ogni patologia deriva da vostre abitudini sbagliate. Perciò, soprattutto, sentitevi in colpa. Il senso di colpa è la prima arma per rimanere in buona salute. Arrivederci alla prossima puntata del notiziario della salute. Uno, nessuno, nessuno.